guarda qua che stuccia radino, senti si è sti sciurrarange, lo profumo a così fino, tinto cuore fedela, e tu dici o parto addio, Oh,

lassa tutto se reconnovasa e me saluta alle trema voce notte che pace dà notte che paia sul fa che Yonder breaks Christ was born. Fire this way.

vita già l'uscio dischiude al gran sole di già con le rose sue dita carezza de fiori lo stuore commosso da un fremito arcano intorno al creato già par e tu non ti desti ed in vano mi sto qui dolente a cantare. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo canatore.

farai per me il sole. Oggi la festa